Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Una buona serata da Anna-Rita D'Ambrosio, insieme questa sera per questa puntata di Effetto Notte. Il primo saluto va a Roberta Giordano, che tra qualche giorno tornerà con voi, e il primo ringraziamento va a chi lavora con me al di là del vetro: Christian Goldoni in redazione e Roberta Frisani in regia. I nostri titoli: Dortmund, 3 esplosioni davanti al pullman del Borussia, ferito un giocatore, partita contro il Monaco rinviata a domani. Il Consiglio dei Ministri su DEF e manovrina, PIL 2017 rivisto al rialzo, Gentiloni, DEF approvato senza aumenti di tasse. Trump alla Corea del Nord, cercano guai, pronti ad agire anche senza la Cina, stasera Tillerson a Mosca per parlare di Siria. E poi c'è la Champions, è la serata di Juventus-Barcellona. Allora, partiamo dalle esplosioni di Dortmund, delle quali vi abbiamo anticipato durante le nostre breaking news. Esplosioni al passaggio della squadra diretta allo stadio. Gli ultimi aggiornamenti con il nostro Giovanni Capuano. Giovanni. Sì, Anna-Rita, buonasera. È successo tutto intorno alle 19.45 e non è ancora chiara la matrice di un atto che, secondo quanto emerge dai primi riscontri, sembra comunque pianificato. La polizia tedesca ha invitato con un messaggio su Twitter a evitare qualunque tipo di speculazione e ha annunciato che nelle prossime ore farà chiarezza per spiegare che cosa è accaduto. Dicevamo, ore 19.45, il Borussia Dortmund si stava recando allo stadio dove alle 20.45 avrebbe dovuto giocare il quarto di finale d'andata contro il Monaco. Stiamo parlando della Champions League, a circa 10 km dallo stadio. Dunque, appena lasciata la sede del ritiro, il pullman è stato coinvolto da 3 esplosioni. Almeno una delle 3 è avvenuta nelle vicinanze del bus che stava transitando lungo le strade, e l'esplosione ha causato il ferimento di un giocatore. Si tratta di Marc Bartra, è un giovane giocatore, un giovane spagnolo, ex del Barcellona, che dopo le prime smentite risulta al momento in ospedale sotto shock e soprattutto per curare alcune ferite ad un braccio che sarebbero la conseguenza delle schegge del vetro andato in frantumi. In realtà i genitori del giocatore hanno tranquillizzato tutti: dopo averlo sentito si tratterebbe di ferite leggere e ci sarebbe soprattutto lo stato di shock di Bartra. Gli altri giocatori del Borussia Dortmund hanno raggiunto lo stadio, lo stesso Borussia ha fatto sapere via Twitter che tutti erano al sicuro. Ci sono stati ovviamente momenti di paura nella gestione dell'ordine pubblico. La gara è stata rinviata domani alle 18.45 per decisione della UEFA. L'annuncio poi è stato dato alle 20.30 al centro del campo. Lo stadio era già ovviamente pieno, stadio che tiene oltre 75.000 spettatori, e ci sono stati numerosi appelli al pubblico a mantenere la calma nella fase del deflusso per evitare ulteriori problemi di ordine pubblico. Questa è la cronaca di che cosa è accaduto. Ovviamente resta aperto l'angosciante interrogativo, cioè quello sulla matrice di un atto che getta una lunga ombra in questa serata di Champions League, in questa serata che doveva essere soltanto di calcio e di sport, ma visti gli eventi delle ultime settimane, degli ultimi mesi in tutta Europa, ovviamente il pensiero corre alla possibilità di un attentato, possibilità però che in questo momento non possiamo la polizia confermare. Tedesca non ha ancora né confermato né lasciato trapelare. Grazie a Giovanni Capuano. Poi tra pochissimo parliamo anche degli impegni nostri italiani in Champions con la Juventus in campo. Prima però il via libera in Consiglio dei Ministri al DEF, crescita solida e sostenibile secondo il ministro Padoan. Dal governo arriva il via libera al documento di economia e finanza che rivede leggermente al rialzo la crescita dell'economia italiana. Nell'anno in corso il PIL dovrebbe raggiungere l'1,1% invece dell'1% delle stime precedenti, mentre a fine anno il rapporto fra deficit e PIL dovrebbe attestarsi al 2,1%. Approvata anche la manovrina da 3,4 miliardi chiesta dall'Europa. Non ci sono nuove tasse, sottolinea il premier Gentiloni. Abbiamo conti in ordine, e i conti in ordine li abbiamo non aumentando le tasse, ma accompagnando il risanamento con misure di sviluppo e di promozione della crescita. Nella manovra sono previsti interventi a sostegno delle zone colpite dal terremoto, della crescita e degli enti locali. I tagli di spesa, invece, non sono stati ancora ben definiti. Le misure in dettaglio saranno rese note nei prossimi giorni, ha fatto sapere il ministro dell'Economia Padoan. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Queste dunque le notizie principali insieme al calcio, quello giocato, dicevamo è la serata di Juventus-Barcellona e allora noi ci colleghiamo in diretta con Torino dove allo stadio c'è il nostro Dario Ricci. Dario. Eccoci qua, 22esimo di gioco a Torino e Juventus in vantaggio per 2-0. Straordinaria questi primi 22 minuti dei bianconeri. Subito avanti al terzo con una punizione di Pjanic, il colpo di testa di Higuain ribattuto da Ter Stegen, poi è salito in cattedra Paolo Dybala, al settimo la fuga sulla destra di Cuadrado, il retropassaggio per l'argentino che si è girato velocissimo e di sinistra ha battuto una prima volta Ter Stegen e poi pochi istanti fa, come sentite ancora dal boato dello stadium, è arrivato il raddoppio, un contropiede splendido della Juventus iniziato da Higuain, continuato poi sulla sinistra da Mandzukic che è andato fin quasi sul fondo, ha crossato anche in questo caso verso il centro dell'area, ancora una volta per il sinistro di Dybala che questa volta dal limite ha battuto ancora una volta Ter Stegen. E dire che pochi istanti prima il Barcellona, finora molto spento ma sempre velenoso, aveva avuto con Iniesta una grande occasione per il pareggio, Iniesta si è trovata tu per tu con Buffon che miracolosamente ci ha messo la mano e ha deviato in calcio d'angolo. 24esimo di gioco allo stadium, Juventus 2-0, decide finora la doppietta di Paolo Dybala. Grazie al nostro Dario Ricci col quale evidentemente torneremo a collegarci. Ora andiamo all'estero, Pyongyang minaccia contromisure per rispondere alla decisione degli Stati Uniti di dislocare navi militari nell'area della penisola coreana. In una nota diffusa dall'agenzia di stampa nazionale del regime, un portavoce del Ministero degli Esteri nordcoreano afferma che gli Stati Uniti saranno ritenuti responsabili delle catastrofiche conseguenze che potrebbero derivare dalla mossa che viene definita oltraggiosa. La Corea del Nord cerca guai, se la Cina decide di aiutare sarebbe magnifico, altrimenti risolveremo il problema senza di loro, la replica di Trump su Twitter. E resta in primo piano anche la questione siriana, se ne è discusso a Mosca dove è in visita il capo dello Stato Mattarella. Non isolare Mosca ma coinvolgerla nelle più importanti questioni internazionali, è questo il senso della visita di Sergio Mattarella in Russia, la prima peraltro di un presidente occidentale dopo l'attentato di San Pietroburgo e l'attacco missilistico americano. Una missione programmata da tempo ma che cade dunque in un momento particolarmente delicato. Tanti i temi caldi sul tavolo, il terrorismo internazionale per il quale entrambi considerano necessaria più collaborazione, la questione libica ma soprattutto la Siria. Mattarella ribadisce che serve una soluzione politica condivisa e definisce l'uso di armi chimiche inaccettabile. Auspichiamo che Mosca, come tutti, possa esercitare tutta la sua influenza per evitare che attacchi simili possano ripetersi. Dal canto suo Putin afferma che Mosca chiederà all'ONU un'indagine sull'attacco chimico e poi aggiunge di essere al corrente di provocazioni programmate per gettare sul governo siriano la colpa del raid e legittimare un intervento occidentale. Parole pesanti che però non rovinano il clima di cordialità e dialogo. L'amicizia è solida e la Russia è un partner strategico, dice Mattarella, mentre Putin definisce l'Italia un partner buono e affidabile anche sul piano economico, sul quale la cooperazione, dice, andrebbe rafforzata. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. E a Mosca si è rivolto da Lucca il segretario di Stato americano. A Lucca c'è la nostra inviata Laura Bettini. È chiaro a tutti noi che il regno di Assad sta per arrivare alla fine, dice il segretario di Stato americano Tillerson, lasciando il G7 di Lucca, ma non dicendo né come né quando, non inficia il risultato della riunione sotto la presidenza italiana che il ministro Alfano ha definito un successo politico. Non esito a dirlo, è stato un successo politico. Abbiamo approvato una dichiarazione finale di oltre 30 pagine. I sette hanno concordato a Lucca una linea comune che non prevede interventi militari, ma un negoziato di pace in cui il ruolo della Russia sia costringere l'alleato Assad al tavolo delle trattative per un completo cessate il fuoco, consentendo di arrivare alla sostituzione del presidente attraverso libere elezioni. Una transizione lenta, quindi, che non riservi un'altra Libia. Per raggiungere l'obiettivo la Russia non va isolata, spiega Alfano. Per questo abbiamo rifiutato l'opzione di imporle delle sanzioni. L'attore della proposta a Mosca dovrebbe essere il segretario di Stato americano, che già stasera sarà in Russia. Ma alla partenza Tillerson ha affermato minaccioso che i russi devono decidere con chi stare, per poi tornare però ad affermare che in Siria il nemico numero uno è il terrorismo. Insomma, non chiarendo quale sia la strategia americana e lasciando aperte tutte le opzioni al presidente Trump. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Lucca. Tra commenti politici e cronaca giudiziaria torniamo sul caso Consip, vicenda inquietante secondo il ministro Orlando. Silenzio da parte di Tiziano Renzi, scintille tra Movimento 5 Stelle e PD sul caso Consip. Il padre dell'ex presidente del Consiglio preferisce tacere riguardo all'inchiesta in occasione della causa civile contro il giornalista Marco Travaglio. Ma le novità riguardano soprattutto l'indagine. Il presidente dell'autorità anticorruzione, Raffaele Cantone, lode i PM che stanno dimostrando di saper fare le cose con chiarezza, in tempi ragionevoli e con grande rigore e coraggio. Il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, commenta che è una vicenda dal profilo inquietante. Interviene anche il legale dei carabinieri sul capitano del NOE Giampaolo Scarfato, indagato con l'accusa di falso per aver attribuito ad Alfredo Romeo e non ad Italo Bocchino una frase su un incontro con Tiziano Renzi. Per la configurazione del reato di falso è indispensabile il dolo, se verrà escluso cadrà il reato. E poi scontro tra PD e 5 Stelle dopo il servizio di report sull'unità. I Dem chiederanno i danni, mentre il Movimento 5 Stelle annuncia un esposto alla magistratura per verificare se sussistono reati. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. La cronaca con le ricerche del killer di Budrio e di Porto Maggiore che non si fermano e si concentrano tra casolari abbandonati e paludi in una zona di circa 40 km tra Marmorta e Campotto. Intanto continua il nostro viaggio sulla sicurezza in Italia. Oggi ci occupiamo di legittima difesa. La difesa è sempre legittima, per legge deve essere necessaria e proporzionata alla minaccia, ma c'è chi la vorrebbe ancora più tutelata. Dopo ogni caso di barista, tabaccaio o gioielliere che spara al ladro, è la Lega ad invocare la corsa alle armi e chiedere di fatto che non subisca alcun processo chiunque prema il grilletto contro chi entri in casa o in negozio, sintetizza Matteo Salvini, che in nome della legittima difesa scende in piazza il 25 aprile a Verona. Chi difende se stesso, la vita di qualcuno che gli sta vicino, non può permettersi di subire un processo. Ritengo indegno uno Stato che fa uscire prima il rapinatore rispetto a colui che è stato rapinato. E in questa direzione va una proposta che da tempo giace in Parlamento, mentre l'Italia dei Valori raccoglie firme. L'abolizione del reato di eccesso di legittima difesa viene considerata invece pericolosa da chi, come Donatella Ferranti, presidente della Commissione Giustizia della Camera, vi legge il rischio Far West. La pistola, se è legittimamente detenuta, già oggi la si può usare in base a leggi che tra l'altro sono state approvate durante il periodo in cui governava il centrodestra. Nel momento in cui c'è un pericolo della tua vita, tu puoi legittimamente usare un'arma, ma non nei confronti di un ladro che scappa. Di sicuro l'emotività non aiuta su un tema così delicato, dove il diritto alla difesa deve essere garantito senza che degeneri in una giustizia fai da te, contraria ad ogni stato di diritto. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ancora cronaca, un ragazzo di 16 anni ha ingerito del liquido corrosivo ed è morto in un ospedale a Bassano del Grappa in provincia di Vicenza dopo alcune ore di agonia. Si tratterebbe di suicidio. Pare che il giovane originario dello Sri Lanka avesse una relazione con una ragazzina italiana, una sua coetanea, osteggiata dalla famiglia di lui. La vita che riprende ad Amatrice, inaugurata oggi la sala temporanea del cinema della cittadina del centro Italia colpita dal sisma, sala di circa 100 posti inaugurata alla presenza del ministro dei beni culturali Dario Franceschini. Sentiamo. Mi pare una giornata importante e un piccolo gesto rispetto a tutti i grandi problemi della ricostruzione che hanno queste terre, ma è un gesto fortemente simbolico perché nasce dall'incrocio di iniziativa pubblica e iniziativa privata, perché aprire un cinema è sempre una cosa bella. Aprire un cinema ad Amatrice, seppur provvisorio come questo, è un segnale importante perché offre intanto alle persone che sono qua la possibilità di passarsi dei fine settimana guardando anche film appena usciti nelle sale, film di prima visione. E in secondo luogo perché la vera sfida qua non è soltanto ricostruire gli edifici, ma è anche far tornare la vita, è un segno di vitalità. Non bisogna rassegnarsi, che questa battaglia la deve vincere il paese. Alla vita che riprende nei luoghi del terremoto, tra l'altro, sarà dedicato anche un nostro speciale che sarà in onda a Pasqua. Noi torneremo a parlare del cinema di Amatrice nel corso di questa puntata con i nostri approfondimenti. Adesso ci fermiamo quando la Juventus, mi dicono dalla regia, resta in vantaggio per 2-0. Vi ricordo solo il nostro numero 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Tra pochissimo i nostri approfondimenti, ora ci aggiorniamo sulla situazione su strade e autostrade. Grazie. Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Gli ultimi aggiornamenti di questa giornata, quelli che arrivano da Dortmund, dove tre esplosioni si sono verificate al passaggio del pullman del Borussia che si stava recando allo stadio per la partita di Champions contro il Monaco. Ferito un giocatore del Borussia, partita rinviata a domani. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il DEF e la manovrina, PIL 2017 rivisto al rialzo, crescita al più 1,1%, soddisfatto Gentiloni, un documento di economia e finanza approvato senza aumenti di tasse. Poi le nuove minacce di Trump alla Corea del Nord, cercano guai, pronti a reagire anche senza la Cina, ha scritto il presidente americano. Stasera intanto il segretario di Stato americano Tillerson è a Mosca per parlare anche di Siria. E poi c'è la Champions, la serata di Juventus-Barcellona, i bianconeri sono in vantaggio per 2-0. E siamo a questo punto ai nostri approfondimenti, che partono obbligatoriamente dalla manovra e DEF che sono stati approvati questa sera dopo un Consiglio dei Ministri durato circa 2 ore. Ne parliamo e lo ringraziamo con Dino Pesola del Sole 24 Ore in collegamento con noi. Dino, buonasera. Buonasera, eccomi. Dino, allora sentiamo un attimo la voce di Gentiloni, quella sui conti in ordine, che è una sintesi abbastanza interessante di questa riunione del Consiglio dei Ministri. Abbiamo conti in ordine e i conti in ordine li abbiamo non aumentando le tasse, ma accompagnando il risanamento con misure di sviluppo e di promozione della crescita. Quindi il lavoro fatto in questi anni dal governo continua e continua con il binomio riforme-crescita. È una giusta sintesi, Dino, questa delle parole del Premier? Beh, allora dobbiamo in qualche modo affidarci alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, del Ministro Padoan, perché in realtà non c'è il testo del decreto legge e non c'è nemmeno il documento di economia e finanza, cioè adesso disponiamo semplicemente di una tabella che riassume un po' gli andamenti tendenziali dell'economia, e quindi certamente quanto ha detto Gentiloni è rassicurante, nel senso che il tragitto che il governo intravede da qui ad ottobre è un tragitto che non prevede aumento di tasse. Il problema è che a oggi il DEF è un documento programmatico, cioè sostanzialmente con il documento di economia e finanza il governo fa sapere a Bruxelles e al Parlamento cosa intende fare con la prossima manovra e indica alcuni obiettivi. Ne cito uno per tutti che è molto importante e anche molto ambizioso dal mio punto di vista, e cioè il deficit dell'anno prossimo che dovrebbe scendere all'1,2%, quest'anno siamo al 2,1-2,2, è un obiettivo molto ambizioso, considerato che poi la manovra non dovrà occuparsi solo di ridurre il deficit, ma dovrà fare esattamente quello che ha detto Gentiloni, e cioè finanziare le misure per spingere l'economia, per la crescita, l'occupazione. Allora, il punto di fondo, ancora una volta, come sempre, ma questo ci verrà chiarito, immagino, nelle prossime ore quando vedremo i testi, è dove si prendono le risorse. Le risorse, perché è sempre la stessa questione, certo. Sì, perché a occhio, insomma, per ridurre il deficit all'1,2 ci vorranno una decina di miliardi. Poi, dopodiché, ci sono, lo ricordo, da disattivare 19 miliardi di clausole di salvaguardia, che nient'altro sono se non un prospettato aumento dell'IVA che si vuole evitare. E dunque c'è un problema di risorse, ci sarà, e questa è la mia impressione, un secondo round negoziale con Bruxelles, e poi c'è da considerare il fatto che questa manovra, quella vera, non quella di oggi, perché la manovra correttiva e francamente solo l'antipasto, ci sarà in ottobre a ridosso delle elezioni, se andremo a votare a febbraio, e dunque c'è anche una variabile politica da non sottovalutare. Non a caso il ministro Padoan ha parlato di crinale, di sentiero stretto, cioè insomma va benissimo che Gentiloni ci rassicuri sul fatto che non ci saranno nuove tasse, però poi adesso vogliamo capire bene in che direzione andranno le misure del governo e soprattutto come le si finanzierà. Perché, insomma, poi Senti, un altro tema delicato, mi sembra di capire anche dalla conferenza stampa, è quello degli statali. Si è parlato di questo aumento fino a 85 euro, al momento sono disponibili solo 35, la Madia ha però rassicurato, CGIL pronta allo sciopero, cioè i fronti caldi sono vari. Questo è un altro appunto degli impegni che il governo, con l'accordo che poi è stato sottoscritto in realtà, no? Per quanto riguarda l'onere dei contratti pubblici, si tratta di individuare almeno un altro miliardo con la legge di bilancio. Per quello dicevo che si sommano molteplici appuntamenti nella manovra che sarà messa a punto in ottobre e di cui oggi sappiamo poco. È forse giusto che sia anche così, perché è evidente che in aprile non si può già delineare il quadro che ci sarà in ottobre. Fa parte un po' di questi rituali che sono francamente un po' da rivedere, cioè che Bruxelles si attende in aprile l'indicazione di quello che si farà a ottobre. E dei dettagli che non possiamo fornire, insomma. Sì, fermo restando che poi, come sempre, a fine settembre ci sarà la nota di aggiornamento del DEF, il quadro programmatico verrà rivisto e ci sarà un'ulteriore trattativa. Dunque, secondo me, in sintesi, la manovra correttiva è stata approvata, non se ne conoscono i dettagli perché il ministro Padoan ha detto ne parleremo, lo verificheremo nei prossimi giorni. Il documento programmatico sta prendendo corpo e dunque ci affidiamo agli intendimenti programmatici di una situazione che però resta complicata, perché noi abbiamo un debito pubblico, e lo ha confermato lo stesso Padoan, che quest'anno si attesterà più o meno allo stesso livello dello scorso anno, quindi non scende, si stabilizza. Lui ha rassicurato, si stabilizza, forse non è la stessa cosa che ridurlo così come si aspetta a Bruxelles e i mercati, tanto per dirla. Però insomma lì c'è la partita delle privatizzazioni, ci sono dei paletti che sono stati posti a livello politico da Matteo Renzi nei giorni scorsi. Ricordo il paletto assoluto, non si aumenta l'IVA, l'altro niente riforma del catasto e poi privatizzazioni aspettiamo. E appunto qui bisognerà trovare una sintesi. Beh, cioè, certo, perché appunto, come dicevi tu, poi questo si intreccia con il dibattito politico che prosegue, insomma. Certo, bisognerà trovare una sintesi tra le pressioni che vengono da Bruxelles, che ci dice riducete il debito, riducete il deficit, fate la correzione sul deficit strutturale e quant'altro. E poi i paletti che invece arrivano dal fronte politico interno e soprattutto dal PD, devo dire, in questa fase, ma non solo, ma anche da Alfano, che cominciano già a dire questo si fa, quest'altro no. È tutto normale, se non fosse che quest'anno la manovra entrerà in vigore a un mese o due dalle elezioni e quindi bisognerà cercare intanto di non farla diventare una manovra elettorale, perché di questo il Paese non ha bisogno, e di farla con coperture certe e che si cerchi poi di mettere in campo le misure giuste. Ne cito una, c'è scritto nel DEF, il governo vuole con la prossima legge di bilancio tornare sul capitolo del costo del lavoro, e lo farebbe con uno... del cuneo fiscale di cui abbiamo tanto parlato anche, no? Questo è decisivo. È decisivo, certo. Il cuneo fiscale è la parte, cioè l'intendimento del governo è quello di procedere con uno sgravio mirato, sembra, sui nuovi assunti fino a un tetto massimo di 35 anni. Va benissimo, costa un bel po' di soldi, bisogna finanziarli. Bisogna sempre capire da dove si prendono, insomma. Soprattutto vanno indicate le priorità. Io penso che di questo abbia bisogno il Paese, cioè di capire in che direzione si sta andando. Poi, dopodiché, certo, c'è un problema di risorse e lì il Ministero dell'Economia bisogna dare risposte. Certo, grazie a Dino Pesole del Sole 24 Ore per essere stato con noi. Noi, prima di fermarci per aggiornarci sul meteo, torniamo a collegarci con Torino, perché c'è in campo la Juventus. Il nostro Dario Ricci a Torino. Sì, Annarita, 42esimo di gioco, direi che finora la tassa che sta pagando il Barcellona si chiama Paulo Dybala, tanto per rimanere in tema. Juventus in vantaggio per 2-0, infatti decide la doppietta dell'argentino al settimo, bravissimo a girare alle spalle di Ter Stegen, un assist di Cuadrado con un sinistro rapidissimo, e poi al 22esimo altrettanto fulminante il sinistro di Dybala, questa volta dal limite dell'area, dopo una splendida volata sulla fascia sinistra di Mario Mandzukic con conseguente assist, retropassaggio al limite dell'area da parte del croato. E dire che appena un minuto prima, al 21esimo, il Barcellona era andato vicinissimo al pareggio con Iniesta che si era trovato a tu per tu con Gigi Buffon, che miracolosamente era riuscito a deviare con la mano sinistra in angolo la conclusione del numero 8 catalano. Un Barcellona che dopo aver subito i due gol ha preso sì il controllo del gioco, ma la Juventus non sembra in affanno, anche se bisogna dire che il tridente davanti fa sempre paura. Neymar, Suarez e Messi ad esempio al 30esimo avevano confezionato il gol della Pulce argentina, annullata per un fuorigioco netto dello stesso Suarez. 44esimo di gioco in questo istante allo Juventus Stadium, Juventus 2 Barcellona 0, decide finora la doppietta di Paulo Dybala. Ma seguiamo questo attacco di Wayne al limite dell'area, il sinistro, la spinta per Stegen, Mathieu salva in calcio d'angolo, incerta la respinta del portiere tedesco del Barcellona, c'era ancora Dybala pronto a intervenire sulla ribattuta, questa volta Mathieu, il difensore francese dei catalani, è stato più pronto e ha salvato in calcio d'angolo. 45esimo in questo istante, Juventus 2 Barcellona 0 allo Juventus Stadium. Grazie al nostro Dario Ricci. Dunque, avete sentito, la Juventus in vantaggio per 2-0, ha quasi sfiorato il terzo gol. Torneremo a collegarci con il nostro Dario Ricci. Intanto adesso ci fermiamo per la pubblicità e per il meteo. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Le 21 e 34 minuti per la precisione, ancora una buona serata da Annarita D'Ambrosio che sta conducendo questa puntata di Effetto Notte. Un ringraziamento ancora in regia a Roberta Frisani, in redazione a Christian Goldoni. Le principali notizie di oggi, partendo da Dortmund, dalle tre esplosioni davanti al pullman del Borussia, ferito un giocatore, partita contro il Monaco rinviata a domani. Sì, in Consiglio dei Ministri al DEF e alla manovrina per il 2017 rivisto al rialzo, soddisfatto Gentiloni, DEF approvato senza aumenti di tasse. Trump alla Corea del Nord, cercano guai, pronti ad agire anche senza la Cina. Stasera Tillerson a Mosca per parlare di Siria, e poi c'è il calcio, giocato la Champions la serata di Juventus-Barcellona con i bianconeri che sono in vantaggio per 2-0 nel segno di Dybala. Dedichiamoci adesso all'estero, le notizie dall'estero, quelle che arrivano dal G7 di Lucca, dominato dalla questione siriana. Oggi Tillerson, il segretario di Stato americano, proprio da Lucca, si è rivolto a Mosca, Mosca dove c'è in visita il nostro Mattarella. A Lucca c'è la nostra inviata Laura Bettini, con la quale ci colleghiamo. Buonasera Laura. Buonasera Annarita, buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora sì, come dicevi, Tillerson è già a Mosca, dove domani incontrerà il ministro degli esteri Lavrov. Resta il punto interrogativo su quello che succederà sul possibile incontro con Putin, forse che sì, forse che no, le voci sono contrastanti. Comunque sicuramente Tillerson arriva a Mosca portando, diciamo così, una linea concordata al G7 dei ministri degli esteri di Lucca sotto la presidenza italiana, una linea comune che non prevede interventi militari ma un negoziato di pace in cui il ruolo della Russia sia sostanzialmente di costringere l'alleato Assad al tavolo delle trattative per un cessate il fuoco, consentendo così di arrivare poi lentamente alla sostituzione del presidente stesso Assad attraverso delle elezioni, quindi una transizione lenta che scongiurerebbe, diciamo, un'altra Libia. Ora poi dopo, se questa linea Tillerson la trasmetterà così semplicemente a Mosca o se ci aggiungerà una posizione americana, che però a questo punto non è chiarissima. Questo lo capiremo domani probabilmente, quando ci sarà una conferenza stampa con il ministro Lavrov, con il quale appunto ci saranno stati dei colloqui. Perché questa incertezza? Fondamentalmente perché Tillerson, che da una parte ha sottoscritto questa linea con i ministri del G7, poi all'altra ha detto anche che è chiaro a tutti noi che il regno di Assad sta arrivando alla fine, che la Russia deve decidere da che parte sta, se con l'Occidente o con Assad e l'Iran, e che insomma gli Stati Uniti potrebbero decidere comunque di continuare dei raid in Siria se ci saranno altre azioni orribili come quella dei gas, che comunque sappiamo a quella che ha provocato diciamo poi questa la reazione americana, sì. La reazione americana, insomma. Alla fine dovremo capire esattamente, o speriamo di capire, perché a questo punto speriamo di capire esattamente qual è la strategia americana nei confronti della Siria in questo momento. Grazie, grazie alla nostra Laura Bettini da Lucca per questa puntualizzazione in relazione al difficile momento internazionale legato alla crisi siriana. E noi torniamo in Italia per parlare di emotrasfusioni e di una vittoria importante. Il Ministero della Salute dovrà risarcire centinaia di persone che hanno subito danni da emotrasfusione con sangue infetto. Sentiamo il nostro servizio. L'attività di controllo sul sangue infetto compete al Ministero della Salute, a cui dunque spetta di pagare i danni da emotrasfusioni. Lo ha confermato la Corte d'Appello Civile di Roma, respingendo il ricorso del Ministero della Salute contro una sentenza del Tribunale della Capitale del 2006, con cui i giudici avevano disposto il risarcimento di centinaia di persone per i danni subiti da emotrasfusione con sangue infetto. Nel ricorso, il Ministero della Salute sosteneva che, derivando il danno da una serie di trasfusioni, la responsabilità sarebbe stata delle singole regioni, depositarie dei compiti amministrativi in materia di salute. Per la Corte d'Appello, tuttavia, il Ministero della Salute è tenuto a esercitare in questo ambito un'attività di controllo e di vigilanza. Di conseguenza, deve anche rispondere dei danni conseguenti a epatite o a infezioni da HIV contratte da soggetti emotrasfusi per omessa vigilanza. Abbiamo aspettato 10 anni, ha detto Marcello Stanca, il presidente dell'associazione AMEV di Firenze. Sono tanti anni, ma alla fine i giudici d'appello hanno confermato le nostre ragioni. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E lo avete sentito anche nelle parole della nostra Roberta Pellegatta, la soddisfazione dell'avvocato Marcello Stanca, presidente nazionale dell'AMEV Firenze e patrocinatore di alcuni dei danneggiati, che è in collegamento con noi e lo ringraziamo. Buonasera, avvocato. Buonasera a tutti voi, ai radioascoltatori. Grazie. Avvocato, allora, dopo 10 anni è arrivata finalmente una risposta positiva. C'era stato un tentativo di scaricare la colpa sulle regioni, vero? Sì, certo, purtroppo è un tentativo ripetuto in vari giudizi, ma probabilmente era un arrampicarsi sugli specchi, era solo per tentare di intorbidare le acque, ma le regioni non c'entrano nulla. Questo compito di vigilanza spettava assolutamente al Ministero, non è stato esercitato come si doveva negli anni pregressi, mentre ora è tutto molto più sicuro, però quando si è sbagliato i danni sono stati tanti e purtroppo almeno 50 persone, almeno dico, non hanno visto la fine di questa causa perché sono volate in cielo prima, purtroppo. Avvocato, responsabilità da contagio riconosciuta fin dal 1979 e adesso poi scatteranno questi risarcimenti che sono sostanziosi. Sì, questi sono dei risarcimenti che comunque sono stati posti con un tetto di 100.000 euro da parte proprio di una legge dello Stato che prevede la possibilità per il Ministero di chiudere tutti i giudizi pendenti, qualunque siano le ragioni di opposizione, proprio per una solidarietà nei confronti dei danneggiati, quindi anche chi ha subito eccezioni di prescrizione o di mancanza di nesso causale potrebbe accedere a questo risarcimento. Questo equa riparazione di 100.000 euro, quindi sarebbe molto una scelta molto corretta moralmente non presentare ricorso per Cassazione, ma offrire finalmente questo importo a tutti coloro che hanno cause in corso e chiudere finalmente questa pagina tristissima che ha visto una strage di Stato impunita, perché tanto i colpevoli non si scopriranno mai, ma soprattutto che ha visto tanta gente morire senza veder nulla. Ecco, avvocato, questo ovviamente sarebbe auspicabile che non si arrivasse poi alla Cassazione. La sentenza comunque offre anche degli spunti di riflessione interessante, perché insomma evidentemente il sistema di farmacovigilanza non funziona poi benissimo, no? Ma sicuramente non ha funzionato bene per tutte le povere persone che si trovano con l'epatite addosso o con l'HIV, e quindi questo sistema certamente più che di farmacovigilanza è stato di farmacosonnolenza, direi, perché purtroppo mi sembra che non abbia funzionato tanto bene. Questi sono gli effetti, è storia ormai. Avvocato, adesso le tappe quali sono? Ma le tappe sono che tutte le persone che erano in questo giudizio, ma anche tutte quelle che non erano in questo giudizio, dovrebbero presentare domanda in massa al Ministero della Salute di accedere all'equa riparazione, quindi rinunciare a agire in giudizio, purché però il Ministero gli dia almeno questi 100.000 euro pagati come gli pare, ma che glieli dia, perché sono pochi, perché quando hanno fatto le transazioni precedenti i risarcimenti per legge erano stabiliti in 400.000 euro. Da 400 a 600.000, invece adesso sono 100.000, uguali per tutti, purtroppo sia per i vivi sia per i morti. Però tant'è, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha detto che non è irrisorio questo importo di 100.000 euro, proprio in considerazione del fatto che dovrebbe essere dato a tutti. E allora diamolo a tutti e diamo sollievo alle famiglie che non possono più attendere altri 10 anni per una Cassazione. Quindi questo è quello che auspica l'AMEV Firenze, cioè che il governo voglia provvedere. C'è una legge che prevede questo, siccome avevano messo un paletto dicendo che solo chi aveva fatto causa entro il 2007 poteva accedere a questo indennizzo, hanno tagliato fuori chiunque si sia contagiato o abbia fatto causa per contagio dal 2007 in poi, anche se il contagio era del 79. Quindi aprire il paletto, toglierlo, questo paletto del 2007, del 31 dicembre 2007, sicuramente darebbe la possibilità di ripercorrere la strada della transazione che è stata pensata nel 2007 con un pagamento entro il 31 dicembre 2017, quindi è sostenibile per le finanze pubbliche un pagamento in un arco temporale di 10 anni. Allora ripetiamolo per tutti quelli che sono rimasti fuori, non facciamoli volare in cielo prima di avergli dato un minimo di sollievo e di soddisfazione per i drammi che hanno subito. Perché lei, come ci ha ricordato, già in 50 sono volati in cielo. Sì, almeno, ora io non ho il polso esatto, ma da quello che ho, dai rinvii che sono stati fatti per i decessi delle persone, io per esempio a me ne sono morti due fratelli, e purtroppo poi e capita anche che qualcuno muore senza eredi e quindi lo Stato si riprende il risarcimento perché non c'è nessuno a cui darlo, purtroppo capita anche questo. Avvocato, noi la ringraziamo per essere stato con noi e per averci ricordato questa vicenda che speriamo possa concludersi senza il ricorso in Cassazione come l'AMEV Firenze. Certamente, due parole soltanto, voglio dire, rabbia e speranza, questo significa la sentenza, rabbia e speranza, soprattutto speranza. Grazie all'avvocato per essere stato con noi, l'avvocato Marcello Stanca, presidente nazionale dell'AMEV Firenze e patrocinatore di alcuni dei danneggiati da questa brutta vicenda. Noi ci aggiorniamo, torniamo ad aggiornarci su strade e autostrade e poi torniamo. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova, pantera.it col TH. Vi presenta... Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Le 21.46, riepiloghiamo i principali fatti di oggi a partire da Dortmund, dalle 3 esplosioni davanti al pullman del Borussia che si stava recando allo stadio per giocare la partita contro il Monaco, partita rinviata domani, ferito un giocatore del Borussia, indagini in corso. È arrivato il via libera su DEF e manovrina dal Consiglio dei Ministri, PIL 2017 rivisto al rialzo, Gentiloni, DEF approvato senza aumenti di tasse. Dall'estero Trump alla Corea del Nord, cerca guai, pronti ad agire anche senza la Cina, stasera Tillerson a Mosca per parlare di Siria. E poi c'è il calcio giocato, la serata di Juventus-Barcellona, partita che sta riprendendo quando i bianconeri sono in vantaggio per 2-0 in questo momento. Adesso però questi sono i principali fatti di oggi. Durante il nostro notiziario nella prima parte ci siamo soffermati anche su una notizia che riguarda i luoghi del sisma e che è una di quelle belle notizie delle quali siamo contenti di poter parlare stasera. La vita che riprende ad Amatrice e riprende anche partendo dall'inaugurazione di un cinema, della sala temporanea del cinema di Amatrice, di questa cittadina colpita dal terremoto. È importante questo, è molto importante, perché le proiezioni riprendono da oggi. Alla cerimonia questa mattina era presente il ministro Franceschini, che abbiamo sentito prima, ma era presente, lo ringraziamo perché è in collegamento con noi, anche Francesco Rutelli, presidente dell'ANICA, era presente questa mattina. Buonasera Rutelli. Buonasera a voi. Allora, è importante, da un punto di vista simbolico, molto. Sì, guardi, la cosa più bella di oggi è stata la presenza di alcune mamme con dei bambini, con il passeggino dentro questo palazzetto dello sport, che è stato un po' il rifugio degli abitanti di Amatrice, perché ha retto, è stato ancora rafforzato, consolidato, e abbiamo visto dei sorrisi dopo tutta questa disgrazia, questa morte e questa tristezza. Non è stata una cosa enorme, è una cosa piccola, semplice, lo voglio ricordare, però che dà un segno di speranza alle tante, tante centinaia di persone che vogliono continuare a vivere lì. Io poi ho avuto un elemento sorprendente, se posso dire, il conducente dell'automobile che ci ha portato a noleggio, Francesco, ha avuto 20 vittime. È la prima volta che tornava, fa di mestiere l'autista, è la prima volta che tornava ad Amatrice, in una frazione di Amatrice, e non era mai voluto venire, e ha accettato di farlo perché vedeva in questo, in questa occasione un piccolissimo segno di rinascita, un piccolissimo segno di socialità che riprende. E questo è importante, proiezioni gratuite per i cittadini di Amatrice e poi anche tutta una serie di eventi, no? Sì, la cosa bella che avverrà è che grazie alla collaborazione dell'ANICA, che ha fornito le attrezzature del Centro Sperimentale Cinematografia, che ha formato due giovani locali che saranno in grado quindi di far funzionare il proiettore di alto livello, e quindi in grado di ospitare in quel palazzetto, far vedere dei begli spettacoli, dei bei film, e di far tornare la gente insieme, ecco, non solo in una cerimonia di lutto, magari in un'assemblea di protesta o di mobilitazione, ma per vedere degli spettacoli importanti. Poi la RAI, RAI Cinema, ha dato subito 10 film, alcuni dei quali danno in anteprima, e stiamo immaginando anche degli eventi in cui anche protagonisti, attori, registi, i nuovi film possono andare lì, i produttori dell'ANICA si sono resi disponibili, e credo che sia quindi un gesto di amicizia e di solidarietà concreta. Ripeto, è un piccolo gesto di fronte a un grande disastro, però è un'inversione di tendenza. Grazie, grazie a Francesco Rutelli, presidente dell'ANICA, per essere stato con grazie noi. Grazie, lavoro. Grazie anche a lei. E allora noi torniamo agli aggiornamenti su Dortmund. Abbiamo parlato delle tre esplosioni, della partita rinviata. Torniamo a collegarci con il nostro Giovanni Capuano. Giovanni, ci sono novità? Sì, dunque la polizia tedesca sta indagando sulla matrice di quello che evidentemente è un atto che sembra pianificato contro il pullman del Borussia Dortmund. Lo ricordiamo, circa un'ora prima della partita, che era in programma alle 20:45, tre esplosioni, una delle quali, almeno una delle quali, ha sicuramente coinvolto il pullman della squadra, causando il ferimento di uno dei giocatori, Mark Bartra, che è ancora in ospedale sotto shock per ferite a un braccio, ma fortunatamente le sue condizioni sono buone, si tratta di ferite leggere e superficiali. Dicevamo, la polizia sta indagando per capire se si sia trattato di un attentato diretto proprio contro la squadra o se ci sia una matrice differente. Al momento non c'è alcuna conferma ufficiale. Giovanni, ma c'erano tensioni tra tifosi? C'erano tensioni? Tra l'altro l'evento è accaduto a 10-12 chilometri dallo stadio. Il Borussia Dortmund era appena partito dalla sede, dall'hotel dove aveva trascorso le ultime ore prima della partita, e si stava recando allo stadio. Borussia Dortmund che giocava in casa, e non c'era nessuna avvisaglia di problema tra le tifoserie. Tra l'altro la tifoseria del Monaco viene dal Principato, è una tifoseria tradizionalmente ben poco calda. Lo stesso stadio, lo stadio Le Deux del Principato di Monaco, viene considerato un salotto, quasi un teatro, insomma non c'era alcuna preoccupazione a livello di ordine pubblico legata alle due tifoserie. In questo momento la zona dove ci sono state le esplosioni è stata transennata, sono in corso dei sopralluoghi anche per verificare che non ci siano altri ordigni. La polizia tedesca sta utilizzando anche dei droni per cercare di mettere in sicurezza la zona. Fortunatamente il deflusso è stato senza alcun problema, anzi le due tifoserie hanno solidarizzato stato tra l'altro tifoseria francese che ricorda da vicino quanto accaduto tragicamente allo Stade de France nel corso degli attentati a Parigi. Gara che è stata rinviata, dicevamo, domani alle 18.45. Le buone notizie sono quelle legate alla condizione di Marc Bartra, che è questo giovane giocatore spagnolo del Borussia Dortmund, che dovrebbe essersela cavata alla fine soltanto con un grande spavento e con alcune ferite superficiali ad un braccio. Continuano le inchieste da parte della polizia tedesca. Al momento continua a esserci l'invito a evitare qualunque tipo di speculazione. Addirittura la polizia dice che non è ancora nemmeno noto dove fossero posizionati i tre ordigni che sono esplosi al passaggio del pullman del Borussia Dortmund. Grazie al nostro Giovanni Capuano per questi aggiornamenti. Dunque, lo stadio che è stato liberato e le indagini che sono in corso per cercare di capire precisamente che cosa è accaduto. Partita rinviata domani, e intanto c'è una partita che è in corso, quella allo Juventus Stadium, ed è quella che riguarda la Juventus contro il Barcellona. Allora chiudiamo tornando a collegarci con il nostro Dario Ricci. Dario. Il 4° di gioco allo Stadium di Torino, Barcellona in avanti, la palla al limite, Iniesta, il tiro del centrocampista catalano, alto di pochissimo sulla traversa di Gigi Buffon, Juventus in vantaggio per 2-0 grazie alla doppietta nel primo tempo di Paulo Dybala al 7° e al 22°, ma piano piano il Barcellona, come era anche prevedibile visto gli assi che ha, sta prendendo fiducia e conquistando metri sul campo in questo secondo tempo appena iniziato. Vicino al pareggio Messi al 46° con un destro dal limite fuori di poco, ma un minuto dopo è stato Kedira a sua volta con un destro sempre dal limite dell'area a inserire Ter Stegen, palla al lato davvero di pochissimo. Da sottolineare che Barcellona all'inizio della ripresa ha sostituito il difensore Mathieu con André Gomes, riequilibrando così dal punto di vista degli uomini di Luis Enrique una situazione a centrocampo che nel primo tempo ha visto il netto dominio dei bianconeri. 53° di gioco in questo istante, quando sulla sinistra avanza Mandžukić, palla all'altezza ancora del centrocampo, Juventus avanti 4-0, siamo quest'ultima azione con Quadrato sulla destra, in vola contro un TD, Quadrato entra in area di rigore, Higuaín al limite dell'area, al destro la parata di Ter Stegen, ha cercato la precisione piuttosto che la potenza, Higuaín, palla ben angolata, ma questa volta Ter Stegen non si è fatto sorprendere. Da sottolineare, ultimo dato prima di restituirvi la linea, il record assoluto di incasso allo Juventus Stadium superati di pochissimo i 4 milioni di euro. Grazie al nostro Dario Ricci. Io torno a ringraziare in redazione Cristian Goldoni, regia Roberta Frisani, Danna Rita D'Ambrosio, l'augurio di una buona serata. Tra pochissimo i nostri aggiornamenti, quelli del giornale radio.